sul 10? Hola, c'è qualcuno sul 10? Cambio? Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, cambio? Attenzione sul 10, se c'è qualcuno, cambio, prego. Ehi, chi sei? Chi è che ha chiamato più rum? Avanti. Chi è? Chi è? Avanti. Passa su un altro canale, Marco, che sei basso. C'è propagazione qua. Passa 15, dai.